Friuli nel mondo. 133esima trasmissione dedicata agli emigrati. Rapsodia di Villotte. Questa breve selezione di Villotte, che non mancheranno di ravvivare in voi, cortesi radioascoltatori, l'amore al Friuli e al suo bel canto, vi viene oggi dedicata dal quartetto Stella Alpina di Cordenons, composto da Ettore Travanut, Renato Marson, Adriano Turrin e Sergio Mion. Sono giovani lavoratori questi che, nel riposo di fine giornata, amano ricrearsi cantando i più bei motivi del vasto patrimonio canoro friulano. Il quartetto eseguirà pertanto Ciantin di Cesare Augusto Seghizzi, Cebielis Maninis, Villotta Popolare, In Cil e Ieune Stele di Luigi Cuoghi e Tita Marzuttini, Mandi Otiare di Tite Sandri e Cesare Augusto Seghizzi, In Secret, Villotta Popolare. Money. Abbiamo trasmesso Friuli nel mondo, a cura di Ermete Pellizzari.